Radio 24 Reportage. Trump e noi, di Sergio Nava. Donald Trump è il 45esimo presidente degli Stati Uniti. Un'elezione tra le più controverse nella storia americana, con le numerose implicazioni geopolitiche che hanno riempito pagine di giornali e speciali radiotelevisivi in tutto il mondo, senza contare ovviamente internet. Ma noi, come guardiamo a Donald Trump? Soprattutto, come guardano i giovani italiani a una presidenza che inevitabilmente segnerà anche il loro prossimo futuro? Radio 24 è andata a raccogliere le voci di alcuni studenti dell'Università Cattolica, uno dei principali atenei milanesi. Tra preoccupazioni e speranze abbiamo scoperto un panorama di opinioni molto più variegato ed eterogeneo di quanto si possa immaginare. Nei chiostri della Cattolica incontriamo studenti ventenni, iscritti a diverse facoltà, da scienze politiche a scienze motorie, passando per economia. Nell'ordine, le preoccupazioni, prima, e le speranze, poi, di Andrea, Riccardo, Giulia, Francesca e Pietro. Mi preoccupa in quanto le decisioni che prende l'America hanno un'influenza in tutto il mondo, quindi un presidente così tanto conservatore non si vedeva da un po' di tempo in America, quindi le decisioni che prenderà influenzeranno in maniera latente tutto quello che poi succederà. Anche noi europei? Anche noi europei, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista geopolitico, anche guardanti le situazioni, visto le situazioni che ci stanno nel mondo in questo momento, Siria, i conflitti, eccetera, eccetera. E lui non ti convince, a quanto capisco? Allora, io sono un po' progressista, quindi l'ideologia di Trump non mi piace a prescindere, però ci sono stati liberisti, comunque conservatori, che mi sono piaciuti. Lui non è tra questi. Diciamo che gli americani nella loro storia ne hanno viste di tutti i colori. C'è un fattore molto interessante, cioè Trump potrebbe veramente rappresentare un punto di non ritorno per gli Stati Uniti dal punto di vista dell'isolazionismo economico. Per noi sarebbe un vantaggio, non lo so, sicuramente una persona che fa delle affermazioni molto importanti, come ad esempio il fatto di voler tornare indietro sul TTIP, è da tenere d'occhio, soprattutto dal punto di vista europeo. Ho vissuto un anno lì e penso che ci siano molti più americani interessanti, con idee più chiare di lui, e soprattutto che in un momento del genere sembra proprio di tornare indietro, di fare un passo indietro in generale per quel che riguarda l'integrazione anche fra vari popoli, che in America tra l'altro è già molto sviluppata, cioè fanno parte di loro, della popolazione, molto di più di qua, quindi eleggere lui secondo me è stato un... Però è anche vero che mio fratello, che vive lì tra l'altro, mi dice anche che loro non erano felici neanche della Clinton, quindi in realtà l'opzione seconda, per me da esterna era migliore. Penso che sia positivo su un certo punto di vista, perché per me Trump è amico comunque a Putin, quindi non si arriva a una terza guerra mondiale. Comunque Trump ha un grande impero, è una persona che ha lavorato e che finanziariamente ha aiutato molto l'America, quindi potrebbe continuare ad aiutare l'America. Secondo me può essere un buon presidente, assolutamente, rispetto alle alternative che c'erano. Perché? Si è visto che la Clinton in questi anni ha fatto solo disastri. Io penso che Trump abbia le credenziali giuste per essere un buon presidente. E anche per noi europei? Ah, questo non lo so, è tutto da vedere. Tu guardi positivamente comunque a lui? Sì, sì, sì. Dai chiostri universitari ci spostiamo ora all'ASERI, l'alta scuola di economia e relazioni internazionali dell'Università Cattolica, dove incontriamo gli studenti che si stanno specializzando proprio in politica internazionale. Il clima qui si fa meno possibilista e prevalgono opinioni più critiche e preoccupate. Edoardo, 33 anni. Credo che comunque se Trump riesca a inserire un po' più di realismo nella politica estera americana, quindi a discutere direttamente con potenze come in particolare la Russia su come risolvere situazioni di conflitto specifiche, al di là di ideologie o di discorsi di export della democrazia, questo penso, spero soprattutto possa essere un fattore di stabilità. Certo, la perdita dell'America come un po' faro del mondo liberale sarà difficile da rimpiazzare, ma mi auguro che a breve termine almeno si riescano a risolvere alcuni dei nodi dello scenario internazionale di oggi. Ti preoccupa che l'Europa possa diventare un po' un vaso di coccio in mezzo a Stati Uniti e Russia? Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che la mia speranza, in realtà il mio interesse più che riguardo a Trump è la risposta dell'Europa. Non ci sono più forze esogene che tengono l'Europa insieme. L'Europa deve trovare al suo interno la forza per farsi grande. Giulia, 24 anni. Vedo un futuro per i rapporti, specialmente tra Stati Uniti e Europa, molto incerto, perché Trump sappiamo che è molto isolazionista parlando di commercio internazionale, quindi noi andremo a perdere comunque una fetta di commercio con appunto internazionale dalla parte occidentale, anche se poi bisognerebbe vedere come si evolverà la situazione una volta che Rex Tillerson diventerà segretario di Stato, perché lui invece, lo sappiamo, è molto più, diciamo, incline all'internazionalizzazione. Però anche dal punto di vista politico ci saranno, secondo me, delle difficoltà nelle relazioni transatlantiche. Diego, 28 anni. Io credo che in realtà la presidenza Trump possa essere un'opportunità, quantomeno per l'Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda il discorso strategico-diplomatico. Ludovica, 24 anni, è molto preoccupata per i riflessi della presidenza Trump sull'Europa. Noi ci troveremo in mezzo a questo credo sarà un grande conflitto che alla fine porterà, cioè proprio abbatterà anche il nostro lavoro dell'Unione Europea che abbiamo fatto. Come cittadina italiana ed europea mi sembri abbastanza preoccupata e pessimista sulla presidenza Trump, cioè non vedi spirali di speranza? No, io vedo che lui è cioè una personalità che tenderà a stabilizzare gli interessi interni a scapito, cioè, di una stabilità internazionale. E Luigi, 32 anni, la pensa come Ludovica. Per l'Europa, secondo me, che ha avuto sempre vantaggio dalla formazione di consuetudini internazionali, potrebbe essere una presidenza difficile. E peraltro il populismo di Trump potrebbe esacerbare le divisioni all'interno dei singoli stati europei, sia per come ha appoggiato la Brexit, sia per come incoraggia la singola nazione a portare avanti il suo proprio vantaggio a scapito invece appunto di queste consuetudini internazionali. Maria Luisa, 23 anni. Sicuramente gli Stati Uniti hanno un potere molto grande, quindi ecco, se le politiche che attuerà Trump saranno negative come per adesso pare, sicuramente potrebbero esserci anche delle ripercussioni su di noi, anche se per adesso, ecco, i politici italiani sembrano comunque voler continuare ad avere una relazione con gli Stati Uniti e, insomma, speriamo bene. Sintetizza per tutti Daniele, 33 anni. L'Europa dovrà trovare la propria identità e la propria forza internamente, perché i fattori esterni, diciamo, che non ci aiutano più adesso. Chiudiamo questo reportage con l'analisi di Damiano Palano, docente di scienze politiche all'Università Cattolica. Palano avverte sui rischi che una presidenza Trump, qualora si confermassero determinate premesse, potrebbe avere per il nostro continente. La presidenza Trump, vista in questo momento, è ancora un po' imprevedibile, perché ci sono tante contraddizioni. Da un certo punto di vista c'è una tendenza a ritirarsi dall'Europa, che non è in realtà un fenomeno del tutto nuovo, e il fenomeno invece effettivamente nuovo è questo avvicinamento alla Russia, che mette in contraddizione Trump anche con la vecchia linea repubblicana. Però dal punto di vista dell'Europa questo potrebbe aumentare ancora una tendenza che da un certo punto di vista è già emersa negli ultimi 15 anni, e cioè il progressivo ritrarsi degli Stati Uniti dall'area europea, perché naturalmente i grandi giochi si giocano per gli Stati Uniti nell'area del Pacifico, potrebbe comportare in realtà un ritorno dei protagonismi nazionali che avevamo pensato fossero scomparsi nel 1945, per cui sicuramente il protagonismo della Russia va inteso soprattutto in questa chiave, ma non dobbiamo dimenticare che l'Unione Europea, avendo vissuto sotto l'ombrello della NATO per più di mezzo secolo, rischia in questo nuovo contesto di un'ulteriore spinta verso l'implosione interna. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.